Il cappello di Subiki. Subiki stava risparmiando da moltissimo tempo per potersi comprare il cappello più bello del mondo. Era fatto di erbe secche intrecciate, con un'ampia tesa e un nastro rosso brillante. Subiki si soffermava spesso davanti alla vetrina del negozio per essere sicura che ci fosse ancora. Un mattino d'inverno, Subiki si accorse di avere finalmente abbastanza denaro per comprarlo. Entrò nel negozio e se lo provò. «Le sta proprio bene», disse la commessa, «ed è perfetto con il suo soprabito». Subiki sapeva che non era vero, perché il cappello non le stava bene e il colore non andava affatto con il soprabito, ma niente l'avrebbe fermata dal comprarlo ed era fermamente decisa a indossarlo tutti i giorni. Quando Subiki uscì dal negozio, scoppiò un improvviso acquazzone. Corse alla fermata dell'autobus, ma una volta arrivata, la pioggia cessò e il sole risplendette di nuovo. A un tratto, dei teneri germogli verdi spuntarono sul suo cappello. La gente li vedeva crescere sotto gli occhi. Sembrava una magia. Crebbero delle strane foglie e una piccola palma spuntò sulla cima del cappello. Tutti quelli che aspettavano l'autobus cominciarono a ridacchiare e a guardarla. Ma Subiki non aveva idea del perché. «Che buffo cappello!» gridò una bambina saltellandole intorno. Subiki si seccò moltissimo. «Ma come osano ridere del mio cappello?» pensò. «Meno male che arriva l'autobus!» Dentro l'autobus le piante crebbero ancora più in fretta e con il calore le gemme cominciarono a sbocciare. Il controllore si dimenticò perfino di farle il biglietto, affascinato dal cappello in crescita. Alcuni passeggeri si alzarono in piedi per vedere meglio. Subiki cercava di sprofondare sempre di più nel sedile e si tirò su il bavero del cappotto fino alle orecchie. «Non mi metterò mai più questo cappello», disse. «Lo nasconderò e me lo metterò solo sulla spiaggia». Scese dall'autobus alla fermata seguente e fece il resto della strada a piedi. Non era andata molto lontana quando udì un ronzio. Sciami di api e di farfalle svolazzavano intorno ai fiori colorati del suo cappello. Subiki seguitava a non capire. «Andatevene, api!» diceva irritata, tentando di scacciarle con la sua borsa. Ma quando Subiki arrivò a casa e si guardò allo specchio, ebbe una meravigliosa sorpresa. «Ah, che bellezza!» esclamò. «Il mio cappello è magico! Ho un cappello magico!» Ecco perché la gente mi guardava e le api e le farfalle mi ronzavano intorno. Saltava per la stanza felice ed eccitata. Adesso sono più che mai decisa a mettermi il cappello tutti i giorni. Ora Subiki, quando usciva, camminava a testa alta perché la gente potesse vedere quanto fosse orgogliosa del suo cappello. La gente veniva da tutte le parti a vederla e il giornale locale la fotografò. Uno studioso di botanica esaminò le piante che crescevano sul cappello e disse che erano molto rare. Un giorno Subiki andò all'esposizione agricola. Stava ammirando una mucca con una gran rosetta rossa intorno al collo quando quella cominciò a brucare l'erbetta fresca che cresceva sul cappello. Nel suo affanno per sfuggirle, Subiki si rifugiò nel padiglione della frutta e verdura. Si sedette per fare un sonnellino, ma venne risvegliata poco dopo da un giudice che le assegnò il primo premio per le fragole più rigogliose dell'esposizione. Per festeggiare l'avvenimento, Subiki se ne andò al mare. Anche lì tutti conoscevano la storia del suo cappello magico. Volevano farsi fotografare vicino a lei, ma un bimbo discolo l'annaffiò di limonata. Le api impazzirono di eccitazione quando la limonata calò sul collo di Subiki. La irritarono tremendamente con le loro zampette solleticanti, tanto che alla fine esclamò esasperata: «Non voglio più essere famosa, voglio andare lontano da tutti, su un'isoletta deserta, dove posso stare tranquilla con il mio cappello». Subiki si tuffò in mare e nuotò più lontano che poté. Ad un tratto, un'ondata la travolse strappandole il cappello dalla testa e scaraventandola sott'acqua. Quando riuscì a emergere mezza soffocata, vide il suo cappello che galleggiava poco distante, solo che sembrava molto più grande di prima. sì, il cappello stava crescendo. Anche i fiori e gli alberi stavano diventando grandissimi. Aspettami, cappello, gridò. Non appena Subichi raggiunse il cappello, il vento cominciò a fischiare intorno a loro e li spinse sempre più lontano dalla riva finché si persero in lontananza. Poi alla fine il vento si calmò e il mare tornò tranquillo. Ora il cappello di Subichi era una bella isoletta tropicale bagnata dal sole. Uccellini variopinti cantavano fra i rami e il mare lambiva i suoi bordi. Subichi era felice sull'isola tropicale. Non più macchine fotografiche, né rumorosi ragazzini, né facce curiose. Si fece un cappello nuovo con delle erbe e si costruì una casetta di fuscelli e di foglie. Ma col passare del tempo, Subichi si sentì molto sola e avrebbe desiderato qualcuno con cui dividere la bellezza dell'isola. Allora intessé una grande vela di foglie e nel primo giorno di vento la issò su una palma. L'isola cominciò a muoversi. Subichi veleggiò per un anno intero e finalmente arrivò in vista della riva. «È Subichi! È Subichi!» gridava la gente dalla spiaggia quando si avvicinò. «Ciao Subichi, bentornata!» Fu molto felice di vederli. Ancorò l'isola vicino alla riva e da allora vive lì. Ma non sola. Subichi sposò lo studioso di botanica che ancora oggi sta studiando il perché della crescita anomala di quello strano cappello. E ogni tanto i suoi amici della spiaggia vanno a trovarli.